Foglie morte, portate via dal vento. Si sente un brivido nel cuore. Nel cielo tutto grigio si specchia il mio tormento. La vita non avrà più sole. Nell'aria senza luce si innalzano più tristi le prime note d'un destino che verrà l'inizio d'un concerto che dice a questo cuore: l'autunno è ritornato, l'amore no. Senza luce si innalzano più tristi le prime note d'un destino che verrà l'inizio d'un concerto che dice a questo cuore: l'autunno è ritornato, l'amore no, l'amore.